Ciao, sono Gigi D'Agostino. E altre storie. D'Agostino, D'Agostino. Siamo attenti. Andiamo lenti. Dai, Gigi. Di cassa. Perché si è fermato? Su, coraggio, si muove. It's coming, no, it's coming, no, it's there. It's

Domani sera, sabato 28 aprile 2007, grande raduno lento, violento del centro Italia, con Gigi D'Agostino. Discoteca Palladium, Trevignano Romano, Roma. Gigi D'Agostino. Sole e mare.